Per Radio Città Fujiko sono qui con Corrado Nuccini, tra le altre cose direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle, però coinvolto anche in questa nuova edizione di Sunair, quindi intanto grazie per aver accettato il nostro invito all'intervista. Per prima cosa volevo chiederti, so che tu quest'anno curerai il progetto indipendente che è abbinato alla rassegna, giusto? Assolutamente sì, sono tre produzioni in 3 anni. La prima è Ragazze CD di Alessandro Baronciani, che è una sorta di graphic novel senza balloons, quindi senza scritte dentro, ma che si fruisce attraverso l'ascolto di un CD. Quindi una contaminazione assolutamente sperimentale, la creatività è totalmente di Alessandro Baronciani, che con questo fumetto chiude una sua trilogia di fumetti in scatola e quindi sono tutti scatolati. Alessandro ha una creatività molto forte e la possibilità di entrare con il nostro percorso, quindi con alcuni finanziamenti che arrivano dalla Regione Emilia Romagna, ha dato una, diciamo, sostenibilità economica maggiore al progetto che verrà presentato quest'anno. La seconda produzione che abbiamo presentato oggi con Emilio Clementi è Motel Chronicles, che è un riadattamento musicale di testi di Sam Shepard, appunto nel romanzo, nella raccolta di racconti Motel Chronicle, che è stato di forte ispirazione per il film Paris, Texas di Wim Wenders. So che tu poi, tra l'altro, sei anche musicista e suonerai nella rassegna con I Giardini di Miró, e quindi ti chiedo, sia da musicista che anche da direttore artistico di un festival importante come Ferrara Sotto le Stelle, sia come avere la possibilità di suonare in spazi magari un po' più raccolti e sperimentare con la propria musica, e sia anche come scegli i progetti da far comparire nel tuo festival? Ma sono due cose diverse, legate, ma diverse, nel senso che ovviamente un festival di rilevanza nazionale come Ferrara Sotto le Stelle ha delle, come giustamente noti tu, delle possibilità e delle necessità di base più alte, però tutto ciò che si impara nella vita dei club e quindi quella che tra virgolette è la gavetta, sono quelle regole molto importanti che poi ti porti dietro come una cassetta degli attrezzi per riuscire a gestire la tua capacità di selezionare. In realtà il direttore artistico di un festival grosso difficilmente sceglie i gruppi, voglio quello, quello e quello, ma mette una visione, significa dare delle priorità a determinate o scene artistiche o priorità ad esempio all'inclusività. Noi abbiamo fatto l'anno scorso una line up gender balance, quindi uguale uomini e donne, dare priorità alle tematiche sul green, dare priorità alle modalità di comunicazione digitale. Insomma, sono queste le cose che un direttore artistico fa. Quando questi elementi vengono messi insieme con una certa capacità, poi diciamo che sono gli artisti stessi che ti vengono a cercare. L'inseguimento agli artisti da parte dei festival non è una modalità, come in tutte le regole di seduzione, che può funzionare molto.